287. Costolette di daino alla cacciatora. Le carni del daino, del capriolo e di simili bestie di selvaggina sono aride e dure, quindi è necessario che il tempo le frolli per essere meglio gustate. Servitevi per questo piatto della lombata, da cui taglierete le costolette tenendole sottili. Mettete al fuoco olio e burro in proporzione della quantità che avrete a cuocere, uno spicchio d'aglio intero e diverse foglie di salvia. Quando l'aglio avrà preso colore, collocateci sopra le costolette, conditele con sale e pepe e cuocetele a fuoco ardente alla svelta, annaffiandole col marsala. 288. Coniglio in umido. Per cucinare questo piatto, vedi le pappardelle col sugo di coniglio numero 94.